Non possiedi una patente da vero rocker? E sei perplesso? Hai una patente da vero rocker, ma ne vorresti un'altra? E sei indeciso? Hai una patente da vero rocker, ma vuoi fare il test attitudinale per dimostrare ad Ari e alle freak che non ti interessa della patente da vero rocker? Titubi? Titubi? Titubi o titubi? Insomma, rompi gli indugi, non titubare! Vieni, se hai fegato, sabato 1 marzo al garage di via Marelli 280 a Sesto San Giovanni, dal vivo! Ipei! Roberto Fricantoni! Ariel DJ! Il test attitudinale e la patente da vero rocker! Il calendario 2008, l'anno della svolta, e la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll al completo, con anche Mister Trombetta e il mitico Isaac Rizzi in persona. Non mancare per nulla al mondo. Chi manca è un titubone. Pane, burro, rock and roll, 7:30 minuti primi. Vai Spadino, che oggi ce n'è di bisogno. Ah, oh yeah. Let the sunshine. Mi si è spento anche il lampione crepuscolare. Adesso come faccio? Forza, scrive il patentato 987. Forza, reduci dei ristoranti a lume di candela. Ricordiamoci che siamo dei veri rocker. Un bel paio di rutti al vento, un po' di rock tosto e passa tutto. Ciao. Ciao Ariele, che ne dici di una fedele ascoltatrice che vi ascolta dalla prima puntata, da 2 minuti prima delle 7 per sicurezza, che pensa che tu sia il cialtrone più affascinante dell'universo? Buon gustaia. Che vorrebbe adottare il dolce francese, stai attenta. Merita una strombazzata? Beh. Domenica 17 farò 30 anni. Auguroni, Cristina! Let the sunshine in, the sunshine. Se la vita ti tiene in scacco, respira, c'è l'almanacco. Ariel e Frick non ti tirano mai il pacco. Ciao Monica. The sunshine. Salutiamo anche Mary. La futura signora Spadino è qui. Donne, fatevi da parte. Un saluto anche ad Ale. Yuri. Ci poteva stare settimanza, sempre per lode dell'almanacco. No, no, poteva però. Bello un sacco l'almacoso, ma dai, no. Let it shine. 335-100-7777. Questo è PBR. Abbiamo un amico che domenica dalla Romagna va a fare una gara di taekwondo a Varese. Massima solidarietà, fratello. Peccato che non sono domenica Varese, se no venivo anche a vedere. Voglio portarmi a casa la coppa del primo posto. Bravo! È così che vi vogliamo. Belli schizofrenici, dalla solarità di Let the Sunshine, passiamo a Siouxsie and the Banshees. Questa è Christine. Spegni il microfono, Spadino, perché questa me la canto tutta. Behind her a smile, every problem puts a stranger inside, helplessly forcing on modern disguise. Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady. Savages lost in our world. This big-eyed girl sees her face is a pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine. sento il dovere di scusarmi. Ma no, ma perché, no, maestro? Cosa succede? Per il vestito di oggi? Ma sì, che anche bello. Ma devo dire anche per aver rovesciato la bottiglia di chinotto sul mixer 10 minuti fa. Beh, anche, certo, no. Quale brutta figura? Beh, insomma, ecco, queste quartine. Ah, lode all'almanacco, sì, c'è rimasto male che la prima mezz'ora non ce l'aveva pronto. Sì, ma infatti perché l'ha composto. Perché sì, sa, lo sforzo è tanto e non è così facile partorire una poesia. E soprattutto si è abbioccato sull'Eurostar, dica la verità, stamattina. No, assolutamente. No, l'ha conclusa alla quartina di venerdì? Naturalmente. Ah, naturalmente. Un 15 di febbraio che svolta con la quartina dell'almanacco, prego. Ode all'almanacco. Venerdì cambia la sostanza. Eccolo. Poiché s'avvicina la fine della sofferenza. Con la brioche che contorce nella panza, realizzi che è l'almanacco la tua vera dipendenza. Ma qui siamo da B a B come rima, maestro, veramente complimenti. Grazie. Era sentita, ci ha impiegato quell'oretta per comporla, ma d'altra parte sì, quell'oretta è 10, esatto. Quell'oretta è 20, ma l'importante è il risultato. Esatto, compleanni del giorno, ottimi compleanni di questo 15 di febbraio, un certo Totò, nasceva nel 1898. Antonio De Curtis, nel rione Sanità di Napoli, e vai. Come nel 1927 nasceva un certo Carlo Maria Martini, cardinale e arcivescovo cattolico italiano, famoso. E nel 1954... questa la renderà contentissimo Roberto perché... Fricantoni. No, ma il 15 di febbraio Matt Groening, fumettista statunitense, l'autore dei Simpson, il mio autore preferito di Futurama, dei Simpson. Ha gli stessi anni, che carino. Abbiamo gli stessi anni, ma lui è più bravo, dice. No, perché, maestro? Ma Matt Groening è più bravo, sono due campi diversi, ma... No, ma non mi consoli, è un più po' bravo. È vero, Matt Groening è più bravo, sì. Ah, sì, sì, no. Non mi strozzi. Chiudiamo con una doppietta di porno dive che potrebbe farle tornare il buon umore. Colpo di scena. 1968. Angelica Bella. Eccola lì. Pornostar ungherese, di cui ho lo scaffale pieno. Ma dai, e invece un'attrice portoricana, anche lei porno diva ovviamente. Nata nel 1974, il 15 di febbraio, Gina Lynn. E guardala lì, non passa giorno senza una porno diva, fantastico. Ah, straordinario, anche di Gina ho tutto lo scaffale pieno. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, that's a bridge. kick at your front door. How you gonna come with your hand on your head or on the trigger of your gun? This game was surviving, as in heaven, as in hell. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oggi è venerdì, siamo nella diretta di venerdì 15 di febbraio 2008. Solitamente il lotto ce lo sgommiamo nella puntata di giovedì, ma essendo io un baluba, ieri, io e la mia redazione, ieri non ci siamo messi in contatto con Carla. Buona giornata, Carla. Buona giornata a voi. Siamo veramente pessimi, eh. Vabbè. Se non ci fossero i radioascoltatori che me lo scrivono, io guarda, la redazione è lì che pensa ad altro. Allora, ricordiamo che da quando è diventata Carla la signora dei numeri di Pane, Burro e Rock and Roll, la stiamo prendendo seriamente la cosa, nel senso, i numeri segnalati li giochiamo per un po'. Eh sì. Abbiamo questi numeri ormai da lunedì scorso, martedì scorso? Sì. Da due settimane, quasi. Due settimane, quasi due. Sì. Li ricordo io. Ma tu dove ce li hai appuntati, Carla, i numeri? Dove te li gioco anch'io. Ma dove te li scrivi? Hai un diarietto dei numeri? No, faccio giù il numero. E te li ricordo. Ah, c'hai la ricevuta. Per quello. No, io me li scrivo a lato della scaletta di Pane, Burro e Rock and Roll. Eh beh sì, se no ti dimentichi. Abbiamo 1836, 1872, i nostri due ambi. Sì. Che chiameremo Super Ambi Rock. Tutte nazionali un euro. E poi abbiamo L'estratto. Estratto 18. 18. Che continua a uscire. Continua a uscire, ma non esce dove l'abbiamo noi. Che era Cagliari-Genova. Cagliari-Genova, sì. Ma l'estratto non si può giocare su tutte anche lui? No, non si prende niente. Perché costa un sacco e non si prende niente. No, perché se te punti, per modo di dire, 2 euro su tutte, prendi ancora i tuoi 2 euro. Ah, esatto. Ho capito. Non è conveniente. Quindi non mi è uscito né Genova né Cagliari. No. Che altre città sono tutte uscite? No, è uscito il 18, è uscito a Roma. Da solo e alla nazionale, da solo. Ma guarda te. Senti, però domani c'è ancora estrazione, quindi ce li rigiochiamo. Domani li giochiamo. E martedì ce li dai nuovi. E martedì vediamo, sperando che escono domani. Ah, perché se non escono ancora li teniamo. No, vediamo se proprio li cambiamo. Ma dai. Senti, so che non posso farti troppe domande su dove li vai a prendere. Ma tu li sai già quelli di settimana prossima o li improvvisi dopo? No. Un'idea ce l'hai già. No, siamo in diretta, non posso dirtelo. No, ma solo se hai già l'idea, Carla. Cioè, allora, ci stai già pensando o no? O lo improvvisi poi? No, va bene, non posso fare domande, hai ragione. No, aspetta, io vi do i numeri che gioco io. Hai ragione. Così almeno sono sicura, perché io non vado a guardare le cabole. Te gara zoom. Gore su. Carla, a martedì allora. A martedì, ragazzi. Buon weekend. Buon weekend. Ciao. Shout to the heart, and you're too late, darling. You give love a bad name. l'argomento che tira quest'oggi. Aia, cosa? La parola d'ordine. Quale cosa? Non si sente parlare d'altro. Di cosa? Elezioni. Elezioni. Ho capito. Ma non occupiamoci di elezioni nostre. Occupiamoci. Chi vuole rimandarle, chi le apprezza, chi invece le paventa. Chi le paventa? No, ma occupiamoci di elezioni indiane, perché siamo cosmopoliti qui a Pane Burro. Vero. Un occhio sul mondo. Sì, avrei uno strano ma vero da proporle con una sigla. Sigla! India, gli elefanti minacciano le elezioni a Meghalaya. Bande di elefanti inferociti rischiano di far saltare le prossime elezioni in programma nello stato di Meghalaya in India. Sente i barriti. Grazie. A darne notizie è stato il quotidiano The Hindu, che ha voluto sottolineare il grande impegno delle autorità locali a predisporre la sicurezza dei seggi più esposti agli attacchi dei pachidermi. Gli animali, infatti, sempre più aggressivi nei confronti dell'uomo, colpevole di aver sottratto loro territorio vitale, potrebbero attaccare e radere al suolo i 194 seggi che si trovano in aree più o meno isolate. Guardie forestali assieme a degli esperti allevatori, ha spiegato un ufficiale governativo impegnato nella messa in sicurezza delle strutture, respingeranno gli elefanti servendosi della preziosa assistenza degli indigeni. Nei confronti dei pachidermi non verrà usata violenza, saranno usati soltanto tamburi e altri strumenti musicali capaci di tenere lontani i pachidermi, tipo la chitarra elettrica, il kazoo. Il kazoo mi sa che li fa imbestialire gli elefanti. Sì, è vero, sentono questo suono che potrebbe loro di sognare. Sì, sentono questo suono che ricorda forse lo squittio di un topo. Esatto. Mi permetta di sognare, Frick. Mi dica. Che bello sarebbe un'invasione di elefanti anche da noi. Sente il barrito in lontananza. the pusher on your body. Love, don't leave your mind. Siamo noi i vostri pusher della mattina, dalle 7 alle 9. Pusher di buona musica, eh? E di strombazzate, via. Steppenwolf, 7:56 minuti primi. Siamo quasi pronti per la seconda pausa di quest'oggi, per racchiudere la serranda sulla prima ora di diretta e occuparci della seconda ora. Ma provo a smaltire un po' di messaggi, se no poi vado a finire malissimo. Gruppo d'ascolto Donne della Pulizia Team Service, per gli uffici uffici della regione. Buona, ciao Antonia. Saluto anche questo, ma guarda, è vero, questo, ho passato San Valentino a guardare Bud Spencer e Terence Hill in televisione. Secondo voi è rock o è veramente triste? No, è rock. Strombazzata d'incoraggiamento, già fatta. Tra l'altro, oltre a Carla, ci siamo dimenticati di sentire Matte questa settimana. Che cialtroni siamo. Il nostro rocker fiorentino di riferimento con i suoi The Anger. Ma troppa roba, pane, burro, rock and roll. Troppa roba. Allora, lo leggo per forza, perché devo salutare anche il DJ Edo, mio collega del pomeriggio, che proprio ieri mi scriveva la stessa cosa via SMS. Reparto. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, medaglia. Lori da Pisa. Buongiorno Ariele, ho appena sentito su, e non dico il nome dell'altra radio, dai basta, no, facciamo troppo. Medaglia, medaglia, medaglia, medaglia, su un'altra radio che fa rock. Medaglia, medaglia, medaglia, ho appena sentito i Beatles tradotti in italiano. Mamma! Anche Edo Rossi, il simpaticissimo collega, ieri mi ha mandato una mail con un link dicendomi: Ariele, ma sapevi che su un'altra radio traducono le canzoni? Fa niente, tanto c'eravamo prima noi. Basta, medaglia, medaglia. Spadino, mandami la base della promozione, che è meglio.